Ti devo chiedere a te, di quel bimbo lì che non ho mai visto la foto, che si chiamava Natale. No, ti chiedevo perché gli avevi fatto fare la foto? Così. Per fortuna che l'avevo, non pensavo di tante cose. L'avevo che chi aveva la macchina, una delle vicine, una ragazza, eravamo nel pianerotto assieme, come qui e la porta è di fronte a noi. E allora lei aveva i bambini anche lei, e loro il suo figlio aveva la macchina, non lo so chi, suo cugino mi sembra. Insomma, che eravamo tutti lì in mucchio come noi qui per la scala. Siamo alla scala assieme, l'entrata è precisa. E insomma, che facevo post la fotografia. Dopo, dice del ban perché. Insomma, bene. L'avevo perché l'avevo fatto lì perché una volta si faceva poco la fotografia. In modo che dopo, aveva. Aveva 20 mesi, avevo un anno, due, non mi ricordo neanche più, dopo l'ora. E mo sono battuta lei, cioè, la lettera di cartone, tra da roba, la fotografia dunque da madre mi va, l'avevo, dopo i miei mariti fece la cornice, e dopo quando fece la cornice lei che... va bene, voilà, io ho la cornice da mia mamma, che lui faceva quel lavoro, faceva il Il falegname, nonno. il nonno, faceva il falegname, allora aveva fatto tutte le cornici. Poi aveva sempre acciato tutte le cornici, tutti i pacerole, che in incontro acciato. No, E e morto. allora quel Natale, quel bimbo piccolo è morto pochi mesi dopo che tu avevi fatto la Sì, foto. dopo. Oh, Cosa, si era ammalato di che capito? cosa? Si è Polmonite. capito? Ah, di polmonite. La polmonite si moriva tutto. Era inverno? No, era d'estate quando è morto. Sì, era d'estate perché dopo c'era il funerale, ricordo che era un sole caldo, non mi ricordo, c'è tutto la data, boh. Beh, tu quanti anni avrai avuto? Oh, io avevo 20 anni. Sono sposata nel 18. E dopo sono stata un po'. Quindi, te che hai le braccia libere, sposta quel vasino verso nel mezzo, se c'è modo. Ecco, Ecco, almeno. almeno si vede. E poi si chiude un po' di cose. Ma era normale quando te avevi 20 anni che un bambino così piccolo morisse? Succedeva Ah, mi ha detto spesso? una polmonite, si moriva tutta una volta. Quanto ne moriva dei bambini, allora, che i dottori ci davano un taglio così. E Beh, modo tu che... però sarai stata abbastanza triste. Ah, beh, eri il primo. Poi è stato malato molto, perché quando sono adesso... È un altro modo, ma una volta erano malati, ma c'era influenza, ma c'era quello, ma non è niente, ma qua molanti, i dottori, molanti, te ne morivo una volta. Ma te, mentre avevi i bambini piccoli, lavoravi lo stesso? Dopo, quando mio marito era via, era andato a lavorare in Svizzera. È andato a lavorare, no? Germania. In Germania, è andato in Svizzera, andavano via, andavano poi a lavorare, che qua non c'era il lavoro. E io andavo a lavorare, li lasciavo un po' a casa mia, la mia mamma, e secondo facevo dei giorni, sino con la bicicletta venivo a Cesena, Da Ponte Pietra? mi era Quante volte tutto. con me nel seggiolino quando era la festa della Madonna del Monte il 15 agosto? Io Beh. ricordo al mattino presto, che era ancora buio, mi pare, partivamo da Ponte Pietra e venivamo su fino alla Madonna del Monte con la bicicletta. Beh. E io mi ricordo che vedevo, siccome abitavamo in una casa bassa a Pontepietra, invece dall'alto, dalla strada del monte, vedevo le case sotto e dicevo, ma che case piccoline! Perché e ci vedevamo un panorama e le case mi sembravano molto piccole, perché le vedevo Se dall'alto. andiamo a piedi da Pontepietro, andiamo a piedi, No, piedi quindi o in no, bicicletta? no, Io mi piedi ricordo in con bicicletta. tutte le vie, prendevamo sempre le Però vie lei faceva altre corte, camminate. delle volte che a camminare, ma quando era la festa della Madonna del Monte, Sì. c'era troppa confusione con le biciclette qua e là, poi non so. Era pieno di gente quando Ah, era la festa della c'era una Madonna del festa Monte. grande, noi qui, Allora, c'era quant'è? solo quelle feste lì, ma Quella Madonna del Monte c'è una festa grande, la gente sta su, le tre, le quattro adesso non stanno ci va su, più nessuno. e tutto, mo adesso ci va il tram, ci va tutte le macchine, chi ha le macchine ne caricano secondo, e c'è anche il pulmino, adesso va, No, il cavallo del Monte. e poi ti volevo chiedere anche un'altra cosa. Quando abitavate lì a Pontepietra, che avevate solo una stanza? Ma nella stanza ci dormivate? C'era anche la cucina? Beh, Qui era il gabinetto, qui era tutto. no, il gabinetto era Beh, nell'orto. era l'orto, Ah, c'era però il se water ti sopra il usciva, letto. avevamo i Ci avevi il vasi, vaso, ecco. dignati. Ma volevo dire che cosa cucinavi da mangiare? Che cosa si mangiava? Ah, beh, adesso mangiare. Se c'è quanto c'è di soldi, si andava a prendere la sua carne, faceva il brodo, si prendeva un qualche animaglietto, io tenevo sempre i conigli, avevo le mie galline, facevo la mia sfoglia. Avevi le uova? La mattina sì, avevo le uova, la mattina presto, secondo quei giorni andavo a Però Mangerone, d'estate, d'estate. d'estate, C'erano amo solo quelle d'inverno, cose lì. D'inverno le perché? uova non No, le c'erano. mettevano sotto calce, Amo. E poi nell'alto, le le grandi. galline le avevo sempre Ah. io. Un po' le mettevo da parte, perché non fedono mica sempre, sempre le galline. Hanno un momento. Esatto. E loro adoperavo quello, e delle volte le ha anche cooperate perché se faceva la spoglia, andare sempre a prendere la minestra compra, Ma allora non loro c'era la minestra no. E se compra. no, che cosa mangiavi? Delle verdure? No, c'è sempre, io tenevo i conigli, tenevo le galline, qualche coniglio mi faceva riuscito poi. La sua famiglia aveva il potere lì dopo il fischiatello. Beh, e C'era la allora, testa però dopo, contadina. quando siete venuti ad abitare qui a Cesena, non ce l'avevi più i conigli e le Oh, ciò faceva senso. Oh, Allora si mio marito compravano nei lavorava, negozi. quando era a casa che non era in Germania, mi mandava i soldi, ma è stato un po' in Svizzera, dava i soldi, io li Questo solo spendevo. quando eravate a Pontepietra, perché quando eravamo a Cesena il babbo era qui a Cesena, No, non era qua. dopo da Cesena, allora pian piano era entrato in un lavoro, lui faceva Nella il falegname, cooperativa dei c'era una muratori. cooperativa, dopo Sì. lavorava sempre, dopo lavorava, ci davano poco loro, però Ah, gli stipendi di allora. c'è un Andava così. qualcosa che mangiavi quando eri giovane, quando eri piccola, che adesso non mangi più, che ti fa la voglia? Ah, ma no, dopo hai cominciato a lavorare nella cooperativa e tutti i mesi, alla fine del mese, portava a casa la sua paga. Io andavo a lavorare nel magazzino, da Pontepietro con la bicicletta, venivo a Cesena e La Rigoni? mi ero fatto anche la Rigone, mi ero fatto dei padroni che avevano bisogno di lavare, perché una volta Non non c'erano c'era le l'elevatrice, lavatrici. boh, e me dai Pondapré, dal Ligas Hidroba, mi c'era fatta il Doni a Cesena, che dovevano lavare, mi davano i panni da lavare. E allora andavo da sto Doni, C'era la lavandaia. faceva la lavandera, devo sciocco un dugron lì, essi appena. Ma dove? Nel fiume? No, da Pontepietro mi venivo su a Cesena a prendere i panni da E dopo lavare. E dove li poi lavavi? andavo a casa, Nel era pisciatello? vicino a Pisciatello, Ah, nel pisciatello li andava lavavi. Sì, bene. Sì, nel fiume. e laveva, gli inscivoneva e poi Li facevi asciugare. metteva Facevi asciugare. lei. Era da Hai lavare. fatto un po' tutti i lavori. Oh, sono andata alla Rigon, sono andata in magazzino. Ah, oh, non avevo paura che. Ah, come tutte le donne di allora. Nel lavoro, io ero c'è. Perché i bordelli erano snei. I figli erano tanti. Mola. Non solo per lei, ma anche per gli altri. I baiocchi era pochi. E dopo invece, quando sei venuta ad abitare qua, che non avevi più la tua mamma, le tue sorelle vicine, che se dovevi lasciare i bambini, dove li lasciavi? Lì non li lasciamo beh, mai. Dopo era cioè, Serena, lei era grande, la via, era più grande, allora sì, noi facevamo un po' di ragazzi. Lavoro la mattina, più ne ci c'eri, poi dopo i grandi facevano parcellatelle, faceva bollire l'acqua quando andava a casa, cosceva da maniera, e dopo la sera, prima di andare a faceva la spoglia, dopo stesse poco, cuscia la minestra in casa. E te facevi la sfoglia tutti i giorni? Ah, quasi. Una volta facevo solo così. E la piadina? Quasi. Ma è che la piede, ma la piede non aveva tempo. Perché ci vuole del tempo a fare la pizza. Invece la sfoglia è più veloce? Oh, ma la sfoglia la facevo la sera, e prima di andare a letto era già secca, la tagliavo e via. Intanto facevo il brodo, mola, mola, pure no. E far da frite da lievere, dicevo una volta. Ah, direi che... Beh, e invece allora quella lì è la foto della mamma di chi? Mio babbo, del mio marito. Ah, di tuo marito, sì, la sì. Tua suocera? Sì. Te l'hai conosciuta? Sì, io. Ho capito come ho fatto, mo per tutto. Ma sì, perché? Io ero in Tesdell. Ah. In casa non avevo nessuno. Avevo un fiore, non l'era vedovo, la moglie l'aveva. Cioè, tuo cognato? L'avevo due bambini, sì. Fratello di mio marito. Ah. E allora? Ah, e allora che io andavo in Tesdell a trovare. Lì non aveva più nessuno, avevo due figli in casa, mio marito e una in casa che era vedo. E l'avevo una bambina. E allora metto ti devo, lascio e ti devo. Dove? Metto a posto. A Cesena? A Cesena. Ah. Ma dai, quando apri a Cesena. Ah, sì, È un po' lunga. Con la bicicletta? Con la bicicletta, sì. Quanta la aveva. E da luogo, una volta la sera furetta sulla bicicletta che si era lo verso a Catfran e ci avevo detto com'è ne zirei a qua con la bicicletta da Kent in due le il meccanico e meccanico boh ci vengono due cose forse andavamo un ponte a pre dopo vaso le tappe mamma mia pre. Ah pure una. Non c'era mica il telefonino per chiamare qualcuno che ti venisse a prendere? Sì, ma perché io mi vado a fare tu? Sì, appunto. Io mi vado solo con la bicicletta. Ah. La macchina la aveva nessuno, ti lava io. Gli avevo il cavello e... Come caccia me uno. Ma e che tipa era la tua suocera? Non so, era già anziana quando l'hai conosciuta te. Sì, mio marito aveva tre figli, mio marito era più snei. Dopo era non cadente sul dedo, era poco. Allora quindi... L'aveva avuto che era già un po' avanti con gli anni, avanti. Quindi lei? Sì, ma no, ma non era meglio invece. È che no, magari va a vederla. Andavano tutti con i capelli tirati e così con i vestiti. Non era molto anziana, andava ancora in giro così, andava a fare la spesa. E invece no. La tua mamma, la Mariuccia, era contadina? No. Anche il tuo babbo? Ah, tutti, tanto qua quando scappetto. E qui ero a sera con la mia balla, mia mamma. Voilà, adesso perché io. Quello nel centro è il tuo babbo? Sì. È un bell'uomo. Era magari un morro, nero, non era differente. Questo qua è il mio fratello, loro erano precisi. Ma mio babbo è a una certa età, invece mio fratello era ancora giovane. Io per me non lo ricordo, perché quando ero piccola andavo in vacanza dalla nonna, che faceva l'agricoltrice, insomma, avevano questo potere. Allora, loro andavano a lavorare nei campi, tutti i fratelli loro, i fratelli suoi andavano con le mogli. E noi stavamo sotto al portico, eravamo 5-6, quanto eravamo, a giocare e ci lasciavano in custodia il nonno, che era paralitico allora, non parlava, stava sulla sedia a rotelle. E quindi l'ho visto, l'ho conosciuto, cioè la faccia me la ricordo. E si chiamava? Ferrante, ma il nome qual era? Ferrante? Per esempio. No, pensavo Ferrante fosse un soprannome o roba del genere. No. Ah, non so che nome sia. Cioè, e quindi vi lasciavano il nonno da guardare? Sì. Non era lui che guardava voi? No, non parlava, non era cosciente del tutto. E ricordo una volta che cadde dalla carrozzina, che allora corri nei campi chiamare... No, succede il tempo, a chiamare loro che erano nei campi e dire il nonno è caduto, allora correvano giù. Lei non c'era perché lei viveva già a Cesena a quei tempi. Una volta, uno non c'è, andando a raccontare, io mi bisognava qualche cosa, sì, avevo la bicicletta, una volta dopo la bicicletta, mi bisognava le sedie, due sedie da mettere in casa. E come facevi a portare a casa da Cesena? Dovevi tutte le cose che compravi le venivi a comprare a Cesena? Oh, per forza. Sì, giù non c'era niente. C'era solo il forno. C'era la chiesa. Il macellaio e la chiesa. Ah. E loro da Cesena sono andata a casa con due sedie sotto braccio. No, a piedi? A piedi. Oh, mamma mia. Amore, se bisognava qualcosa. E quando andava a fare la spesa... Nessuno aveva la macchina allora. Data che venivo a Cesena, si cercava di fare un po' di spesa, perché c'è un mio sole è lungo. La bicicletta non l'avevo. E allora dai. Aveva due sporti a Marco di voilà, adesso un cuscio qua. Allora, insomma, se la carica passa... E passo un contadino, il Gevarenghe. Dice, ma dove è da stora? Avevo due scarani, comunque, gli aveva la pavirmo, però tutto il lento, che sei, erano due scarani. Ah, con la paglia. Sotto bras, arrivai a Pondapre con due scarani. Un passetto avanti là con la cavalla, eccetera. Dai, va là, dai un cascarane che li metto qua. E lei che molto sciocca a me, ma a me non molto sciocca perché lei è una cavallona, lo cuscion viva che la sampiga, viva, e pure. Di quelle grosse no. Ma dai, molto sciocca, pure. No, non so niente. Te che adesso, quando ci ne vede con me, voti a là, voti che quando passi dalla lì, tu sciocca. E c'è del resto, pure non si no, a sera arrivate a Catfren con lo scarani e vado lì qua. Amo. E questa foto qui io non l'ho mai vista, l'artigliere d'Italia. Ricordo Pola. Pola? Questo è il nonno. Ma scusa, Pola, c'è il Colosseo? Pola. No, non è il Colosseo. Colosseo. Pola è dov'è? A Trieste? A cosa? Vicino a Istria. In Friuli. Ma è il nonno Agostino? Sì. Ma quando era giovane, faceva il militare. Che c'ha la spada. C'era la spada. Ah, ma i soldati? E che è vestito da è soldati. È la divisa da militare. Ma cos'è? Che saranno 1930? Non si sa. 1900, anche prima, forse. Non c'è scritto niente. Voi quando vi siete sposati, ti ricordi? Più o meno? Ah, di. Cesarina è che lei è del 41. Sì. Cesarina è del 41. Natale, prima c'è 39. Natale. Ma che del 39. Natale. E prima c'era stato l'altro Natale. Sarà stato nel 36. Buon pomeriggio. Quindi Perché te, ti, siamo un dopolavoro. te hai Sono detto che sei 35. sposata, scusa, a 18 anni, adesso ne hai 93. Bisogna fare un po' di moltiplicazioni, di sottrazioni. Ma sì. Sì, insomma, anni 20. Ah, che vita, Questo era prima di che vita. sposarti. Sì, soldati, dopo che ho cercato i soldi. Allora Questo facevano. te l'ha mandato a te? No, quando il nucaro li avevo, dopo mi ha detto. Il militare si faceva a Io 21 non l'ho anni? visto prima del militare. Non l'avevi conosciuto mai? No, io l'ho visto questo quando è venuto a casa, che era proprio vicino. Io stavo di là dal fissatello, lui stava di qua, eravamo da fronte.